In quell'epoca lo zio cominciò a diventare il fastidio che fin dall'inizio Wang Lung aveva temuto potesse diventare. Questo zio era il fratello minore del padre di Wang Lung e appellandosi alla parentela poteva in ogni momento rivolgersi a Wang Lung se non avesse avuto abbastanza per sé e la sua famiglia. Fin quando Wang Lung e suo padre erano stati poveri e avevano avuto a stento di che mangiare, lo zio faticava sulla sua terra e metteva insieme abbastanza per nutrire i suoi 7 figli, sua moglie e se stesso. Ma nessuno di loro, una volta nutriti, lavorava. La moglie non si muoveva nemmeno per spazzare il pavimento della loro capanna e i figli non si preoccupavano di pulirsi la bocca dopo mangiato. Era una vergogna che le femmine, crescendo e perfino in età da marito, corressero ancora per la strada con i capelli scarmigliati sotto il sole. E a volte rivolgessero addirittura la parola agli uomini. Incontrando un giorno la maggiore delle cugine che si comportava così, Wang Lung si arrabbiò tanto per la vergogna causata alla famiglia che si fece coraggio e andò dalla moglie di suo zio e disse: «Chi vorrà sposare una ragazza come mia cugina, che qualsiasi uomo può guardare? Sono 3 anni che è in età da marito e se ne corre in giro. E oggi ho visto in strada uno zoticone vagabondo che le ha messo la mano sul braccio e a lei gli ha risposto solo con una risata sfrontata». La moglie dello zio non muoveva nulla nel suo corpo tranne la lingua e ora la scatenò contro Wang Lung. «Beh, e chi pagherà la dote, il matrimonio e il compenso per il mediatore? È facile parlare per chi non sa che farsene di tutte le terre che ha. E con l'argento che gli avanza se ne compra in più dalle grandi famiglie, ma tuo zio è un uomo sfortunato. Ed è stato così fin dall'inizio. Ha avuto un destino maligno e non per colpa sua. Il cielo vuole così. Dove altri riescono a produrre buon grano, a lui muore il seme nel terreno e non spuntano altro che erbacce, per quanto ci si spacchi la schiena». La donna scoppiò in forti e facili lacrime, scaldandosi fino a diventare una furia. Si afferrò il nodo dei capelli sulla nuca e cominciò a tirarsi i capelli intorno alla faccia e a gridare senza ritegno: «Ah! È qualcosa che tu non sai cos'è, avere un destino maligno. Mentre i campi degli altri danno buon riso e grano, i nostri danno erbacce. Mentre le case degli altri stanno in piedi 100 anni, la terra stessa sotto la nostra trema e fa crepe nelle pareti. Mentre gli altri mettono al mondo dei maschi, io, anche se concepisco un maschio, partorisco una femmina. Ah, destino maligno!» Strillava forte e le vicine uscirono dalle loro case per vedere e sentire. Wang Lung però resistette, finì di dire quello per cui era venuto. «E comunque», disse, «anche se non sta a me dare consigli al fratello di mio padre, dirò questo: è meglio sposare una ragazza finché è vergine e chi ha mai sentito parlare di una cagna che lasciata andare per la strada non ha figliato». Dopo aver parlato così schiettamente, tornò a casa sua e lasciò che la moglie dello zio continuasse a gridare. Aveva in mente di comprare quell'anno dell'altra terra dalla casa dei Huang e così ogni anno per quanto gli fosse stato possibile e pensava di aggiungere una nuova stanza alla casa e gli faceva rabbia che mentre lui e i suoi figli si innalzavano diventando una famiglia di proprietari di terre, quella prole inetta dei suoi parenti scorrazzasse in giro portando il suo stesso nome. Il giorno dopo suo zio arrivò nel campo dove stava lavorando. Olan non c'era, perché erano passate 10 lune dalla nascita del secondo figlio e un terzo parto era per lei imminente. Questa volta non stava tanto bene e per alcuni giorni non era andata nei campi e quindi Wang Lung lavorava da solo. Suo zio arrivò ciondolando lungo un solco con i vestiti come al solito non bene abbottonati ma raccolti e stretti malamente con la cintura e sembrava sempre che sarebbe bastato un soffio di vento per farlo restare improvvisamente nudo. Arrivò nel punto in cui si trovava Wan Lung e rimase in silenzio mentre questo zappava una striscia sottile accanto ai grossi fagioli che stava coltivando. Alla fine Wang Lung disse con malizia e senza sollevare gli occhi: «Ti chiedo di perdonarmi, zio, se non interrompo il lavoro. Sai, questi fagioli, se si vuole che portino frutto, come ben sai, devono essere lavorati 2 e anche 3 volte. I tuoi senza dubbio li hai già finiti. Io sono molto lento, un povero contadino, e non finisco mai il mio lavoro in tempo per riposarmi». Lo zio capì perfettamente la malizia di Wang Lung, ma rispose tranquillamente: «Sono un uomo dal destino maligno. Quest'anno su 20 semi di fagioli ne è germogliato uno solo e con una resa così bassa non ha senso mettere mano alla zappa. Dovremmo comprare i fagioli quest'anno se vorremmo mangiarli. E fece un profondo sospiro. Wang Lung indurì il suo cuore. Sapeva che lo zio era venuto per chiedergli qualcosa. Puntò la zappa nel terreno con un lungo movimento uniforme e con grande attenzione, rompendo nella terra morbida già ben zappata anche le più piccole zolle. Le piante di fagioli stavano ritte alla giusta distanza l'una dall'altra, gettando piccole e nette frange d'ombra nel sole. Alla fine suo zio cominciò a parlare. La persona in casa mia mi ha detto che ti sei interessato alla mia inutile schiava più grande. È perfettamente vero quel che dici. Sei saggio per i tuoi anni. Dovrebbe essere sposata, a 15 anni, e in questi 3 o 4 anni avrebbe potuto partorire. Ho sempre paura che possa rimanere incinta di qualche cane selvaggio e portare vergogna a me e al nostro nome. Pensa se succedesse nella nostra rispettabile famiglia, a me, il fratello di tuo padre. Wang Lung spinse con forza la zappa nel terreno. Avrebbe voluto parlare apertamente, avrebbe voluto dire: «E allora perché non la controlli? Perché non la tieni chiusa in casa secondo decenze e non le fai spazzare il pavimento e fare da mangiare e cucire vestiti per la famiglia?» Ma non sono cose che si possono dire a una persona di una generazione più anziana. Rimase perciò in silenzio e zappò intorno a una pianticella, in attesa. «Se il mio destino fosse stato, continuò tristemente suo zio, sposare una moglie come quella di tuo padre, una che sa lavorare e nello stesso tempo mettere al mondo dei figli, come fa anche la tua, invece di una donna come la mia che non fa crescere altro che grasso e partorisce solo femmine, e quell'unico figlio maschio indolente è meno di un maschio, con tutta la sua indolenza, anche io adesso avrei potuto essere ricco come te». E avrei potuto, anzi, avrei diviso volentieri la mia ricchezza con te. Avrei sposato le tue figlie a buoni uomini. Avrei sistemato tuo figlio come apprendista nel negozio di un mercante e avrei pagato volentieri la garanzia. Sarei stato felice di riparare la tua casa e ti avrei dato da mangiare il meglio che ho a te e a tuo padre e ai tuoi figli, perché siamo uno stesso sangue. Wang Lung rispose seccamente: Sai che non sono ricco. Ho 5 bocche da nutrire adesso. E mio padre è vecchio e non lavora, eppure mangia, e un'altra bocca sta nascendo in questo momento nella mia casa, per quanto ne so. Lo zio rispose con voce stridula: Sei ricco! Sei ricco! Hai comprato il terreno della grande casa a Dio solo sa quale altro prezzo. C'è un altro in paese che potrebbe fare lo stesso? A quel punto Wang Lung non ci vide più, gettò a terra la zappa e fissando lo zio improvvisamente gridò: Se ho un po' d'argento è perché lavoro e mia moglie lavora e non ciondoliamo attorno a un tavolo dove si gioca d'azzardo come altri fanno e non ce ne stiamo a spettegolare sui gradini di casa mai spazzati lasciando che i campi siano invasi dalle erbacce e i nostri figli non mangino a sufficienza. Il sangue salì nella faccia gialla dello zio che si avventò contro il nipote e lo schiaffeggiò con forza su entrambe le guance. Questo, gridò. È per aver parlato così con la generazione di tuo padre. Non hai religione, non hai morale, non hai un sentimento filiale, non hai sentito che negli editti sacri è proibito a un uomo correggere un anziano? Wang Lung era accigliato e impassibile, consapevole della sua colpa, ma profondamente arrabbiato con quell'uomo che era suo zio. Racconterò le tue parole a tutto il paese! Gridò lo zio con voce stridula e tremante nella furia. Ieri attacchi la mia casa e strilli in giro per la strada che mia figlia non è vergine. Oggi rimproveri me che se tuo padre muore devo essere per te come un padre. Può darsi che le mie figlie non siano tutte vergini, ma non mi parlerebbero mai a questo modo. E continuò a ripetere: Lo racconterò in paese, lo racconterò in paese. Finché Wang Lung disse riluttante: Cosa devo fare? Feriva il suo onore l'idea che la questione potesse essere portata davanti al villaggio. Dopotutto si trattava della sua carne e del suo sangue. Suo zio cambiò immediatamente. La rabbia in lui si sciolse e svanì, sorrise e mise la mano sul braccio di Wang Lung. Ah, ti conosco! Bravo ragazzo, bravo ragazzo! Disse gentilmente. Il tuo vecchio zio ti conosce, sei mio figlio! Un po' d'argento in questa povera vecchia mano, figlio. 10 pezzi, o anche solo 9, e potrei prendere accordi con un mediatore per quella mia schiava. Ah, hai ragione, è tempo, è tempo. Sospirò e scosse la testa e guardò devotamente verso il cielo. Wang Lung sollevò la zappa e la gettò nuovamente a terra. Vieni in casa, disse seccamente. Non porto addosso l'argento come un principe. E si incamminò per primo, pieno di rabbia, perché un po' del buon argento con cui aveva progettato di comprare altra terra sarebbe finito nella mano dello zio, da cui sarebbe scivolato sul tavolo da gioco prima che fosse scesa la notte. Entrò nella casa, allontanando dal suo cammino i due bambini piccoli che giocavano vicino alla soglia, nudi sotto il sole piacevolmente caldo. Lo zio, con fare tranquillo e bonario, chiamò i bambini e da qualche recesso dell'abito sgualcito tirò fuori una monetina di rame per ciascuno. Strinse a sé i corpicini grassi e lucenti e mettendo il naso sui loro morbidi colli annusò placido e affettuoso la loro carne abbronzata dal sole. Ah, siete proprio due ometti, disse, prendendoli in braccio. Ma Wang Lung non si fermò. Andò nella stanza dove dormiva con la moglie e il bambino più piccolo. Dopo, il sole là fuori, dentro era molto buio e non riuscì a vedere nulla all'infuori della striscia di luce che entrava dal buco. Ma l'odore del sangue caldo che ricordava bene riempì le sue narici e lo fece esclamare: Che succede? È già arrivato il momento? La voce di sua moglie rispose dal letto, più debole di come l'avesse mai sentita. È già tutto finito anche stavolta, ma stavolta è solo una schiava. Non vale la pena parlarne. Wang Lung restò immobile. Un senso di disgrazia lo colpì. Una bambina. Una bambina stava causando tanti problemi nella casa di suo zio e adesso anche nella sua casa era nata una bambina. Senza rispondere, andò al muro e lo tastò alla ricerca del punto ruvido che segnalava il nascondiglio e tolse il pezzo di terra che lo copriva. Rovistò all'interno della montagnola d'argento e contò 9 pezzi. Perché prendi l'argento? Nel buio chiese all'improvviso sua moglie. Sono costretto a prestarlo a mio zio, rispose brevemente. All'inizio sua moglie non ribatté nulla, ma poi disse alla sua maniera semplice e grave. Meglio non dire prestare. Non c'è prestito in quella casa, c'è solo dare. Ah, lo so bene, replicò con stizza Wang Lung. È come tagliarmi un pezzo di carne e darglielo, e per nessun altro motivo se non che siamo dello stesso sangue. Poi, uscendo sulla soglia, cacciò i soldi nella mano dello zio e tornò di fretta al campo, e là si mise a lavorare come se dovesse strappare la terra dalle sue fondamenta. Non riuscì a pensare ad altro che all'argento. Lo vedeva buttato sconsideratamente sul tavolo da gioco, lo vedeva raccolto da una qualche mano oziosa, il suo argento, l'argento che con tanta pena aveva messo insieme con i frutti dei suoi campi per trasformarlo a sua volta in altra terra per sé. Al calar della sera la sua rabbia non si era ancora spenta. Allora si raddrizzò e gli tornarono in mente la casa e il cibo. Poi pensò alla nuova bocca arrivata quel giorno nella sua casa e con un senso di pesantezza lo investì il pensiero che era cominciata per lui la nascita di figlie femmine, figlie che non appartengono ai loro genitori, ma vengono partorite e cresciute per altre famiglie. Arrabbiato com'era con suo zio, non aveva nemmeno pensato di fermarsi a guardare il viso di quella nuova creaturina. Appoggiato alla zappa, lo invase la tristezza. Avrebbe dovuto attendere ormai un altro raccolto per comprare quella terra. Un appezzamento confinante con il suo, e in casa c'era adesso un'altra bocca. Uno stormo di cornacchie di un nero profondo passò in volo nel cielo crepuscolare, pallido e perlaceo, gracchiando forte mentre saettava sopra di lui. Le osservò scomparire come una nuvola negli alberi attorno alla sua casa e le rincorse gridando e agitando la zappa. Si alzarono piano, tracciando cerchi sopra la sua testa e deridendolo con le loro strida, e infine si allontanarono nel cielo che diventava sempre più scuro. Wang Lung emise un forte gemito. Era un brutto auspicio. 8. Sembrava che gli dèi, se solo si erano rivoltati contro un uomo, non lo prendessero più in considerazione. Le piogge che sarebbero dovute arrivare all'inizio dell'estate tardavano e giorno dopo giorno i cieli splendevano con fresca e indifferente luminosità. Della terra riarsa e affamata non gli importava niente. Da un'alba all'altra non c'era una sola nuvola E di notte le stelle si sporgevano dal cielo dorate e crudeli nella loro bellezza. I campi, benché Wang Lung li coltivasse disperatamente, si inaridivano e si spaccavano. E i giovani steli di frumento che erano spuntati coraggiosamente con l'arrivo della primavera e avevano preparato le loro teste per il grano, non trovando niente che dal suolo o dal cielo venisse a loro, smisero di crescere e rimasero dapprima immobili sotto il sole e alla fine avvizzirono e ingiallirono in un raccolto sterile. I riquadri con le pianticelle di riso che Wang Lung aveva seminato per primi erano pezzi di giada sopra la terra marrone. Vi portava l'acqua ogni giorno dopo che aveva rinunciato al grano, i pesanti secchi di legno appesi a un bastone di bambù che reggeva sulle spalle, ma nonostante il solco inciso sulla sua carne e il formarsi di un callo grande come una ciotola, la pioggia non arrivò. Alla fine l'acqua nello stagno si asciugò e rimase solo un fondo di argilla, e persino nel pozzo l'acqua si abbassò al punto che Olan gli disse: «Se i bambini devono bere e il vecchio deve avere la sua acqua calda, non resta niente per le piante». Wang Lung rispose con una rabbia che si spezzò in un sospiro: «Beh, e se le piante muoiono, moriranno tutti». Era vero che tutte le loro vite dipendevano dalla terra. Soltanto l'appezzamento vicino al fossato diede frutto, ma solo perché, mentre l'estate trascorreva senza pioggia, Wang Lung abbandonò tutti gli altri campi e passava le sue giornate in questo, prendendo l'acqua dal fossato per versarla sul suolo assetato. Quell'anno per la prima volta vendette il suo grano subito dopo il raccolto, e quando sentì l'argento nella mano lo strinse forte, con gesto di sfida. Si disse che nonostante gli dèi e la siccità avrebbe fatto quello che aveva deciso di fare. Aveva spezzato il proprio corpo e versato sudore per quella manciata di argento e ne avrebbe fatto quel che voleva. Corse allora alla casa dei Huang, dove incontrò la gente che si occupava delle terre e senza tante cerimonie disse: «Ho abbastanza per comprare il terreno accanto al mio, vicino al fossato». Wang Lung aveva sentito qua e là voci che per la casa dei Huang era stato un anno di caduta verso la povertà. Per molti giorni l'anziana signora non aveva avuto per intero la sua razione di oppio ed era come una vecchia tigre affamata, e così ogni giorno mandava a chiamare la gente e inveiva contro di lui e lo colpiva in faccia col ventaglio gridando: «Beh, non è rimasto proprio più nessun terreno?» L'uomo era ormai fuori di sé, aveva rinunciato persino ai soldi che normalmente tratteneva per sé da ogni transazione fatta per la famiglia, tanto era fuori di sé. E come se non bastasse, l'anziano signore prese ancora un'altra concubina, una schiava figlia di una schiava che da giovane era stata sua, sposata adesso a un servo della casa, perché il desiderio che l'anziano signore aveva provato per lei era svanito prima che avesse potuto introdurla nella sua stanza come concubina. Guardava ora con fresca brama la figlia della schiava, appena sedicenne, perché a mano che diventava vecchio e infermo, appesantito nel corpo, sembrava desiderare sempre più donne snelle e giovani, addirittura bambine, tanto che niente spegneva la sua brama. Come l'anziana padrona col suo oppio, così era per lui la sua brama, e non c'era verso di fargli capire che mancavano soldi per comprare orecchini di giada per le sue favorite, oppure oro per le loro belle mani. Non riusciva a capire le parole «mancano soldi», lui che per tutta la vita non aveva avuto che da tendere la mano e riempirla tutte le volte che voleva. E vedendo i genitori fare così, i giovani signori scrollavano le spalle e dicevano che doveva esserci ancora abbastanza per tutto il tempo della loro vita. Erano uniti in una cosa soltanto: nel rimproverare la gente per la sua cattiva gestione delle tenute, tanto che quell'uomo, un tempo viscido e ipocrita, che amministrava agio e abbondanza, era diventato ansioso e tormentato, e la sua carne si era ridotta tanto che la pelle gli pendeva addosso come un vecchio indumento. Il cielo non aveva mandato la pioggia nemmeno sui campi della casa dei Huang, e nemmeno lì ci fu raccolto. E quando Wang Lung andò dalla gente esclamando «Ho dell'argento!», fu come se qualcuno fosse andato da un affamato dicendo «Ho del cibo!». La gente vi si aggrappò, e se la volta precedente erano rimasti a bere tè e contrattare, adesso i due uomini si parlarono in sussurri impazienti, e senza aver quasi scambiato parole, i soldi erano passati da una mano all'altra, e le carte erano state firmate e sigillate, e il terreno era di Wang Lung. E di nuovo Wang Lung non soffrì nel cedere quell'argento che era la sua carne e il suo sangue. Il desiderio del suo cuore l'aveva spinto a comprarlo. Adesso aveva un vasto campo di buon terreno, perché il nuovo campo era due volte il primo. Ma ancora più della sua scura fertilità, era importante per lui il fatto che fosse appartenuto un tempo alla famiglia di un principe. E questa volta non disse a nessuno, nemmeno a Olan, quello che aveva fatto. I mesi passarono uno dopo l'altro e ancora non pioveva. In prossimità dell'autunno le nuvole si raccolsero riluttanti nel cielo, nuvolette leggere, e sulla strada del villaggio si potevano vedere uomini che se ne stavano là a far nulla, preoccupati, le facce rivolte verso il cielo, commentando le singole nuvolette e discutendo se ciascuna di esse portasse pioggia oppure no. Ma prima che abbastanza nuvole potessero riunirsi e promettere qualcosa, un vento pungente si levò a nord-ovest, il vento aspro del deserto lontano, e soffiò le nuvole dal cielo così come si spazza un pavimento con la scopa. E il cielo fu vuoto e sterile, e il sole sorgeva grandioso ogni mattina e compiva la sua marcia e tramontava solitario ogni sera, e la luna, quando era il suo tempo, nella sua limpidezza, brillava come un sole minore. Dai suoi campi Wang Lung raccolse una quantità scarsa di fagioli particolarmente resistenti, e dal suo campo di grano che aveva piantato, in preda alla disperazione, quando le pianticelle di riso erano ingiallite e morte, ancora prima di essere trapiantate nel campo irriguo, aveva raccolto spighe corte e ispide dai chicchi radi. Neanche un fagiolo andò perso durante la trebbiatura. Mise i due bambini a setacciare con le dita la polvere dell'aia dopo che lui e la donna avevano battuto le piante, e sgranò il grano turco sul pavimento della stanza centrale, seguendo con occhio attento ogni chicco che volava intorno. Quando ebbe messo via i torsoli da usare come combustibile, sua moglie disse: «No, non bisogna sprecarli bruciandoli. Ricordo che da bambina nello Shantung, quando arrivavano annate come queste, noi macinavamo e mangiavamo persino i torsoli. Sono meglio dell'erba». Dopo che ebbe parlato, tutti tacquero, anche i bambini. C'era un presentimento in quelle giornate strane e brillanti quando la terra li tradiva. Solo la bambina non aveva paura. Per lei c'erano i due grossi seni della madre, pieni abbastanza da soddisfare il suo bisogno, ma Olan, allattandola, mormorava: «Mangia, mangia, povera scioccherella, mangia, finché c'è da mangiare». E poi, come se le disgrazie non bastassero, Olan rimase incinta un'altra volta, e il suo latte si asciugò, e la casa, spaventata, era piena della voce della bambina che continuava a piangere chiedendo il cibo.